La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 10 aprile 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E in questa puntata del tutto straordinaria parleremo, come normalmente non facciamo, di un argomento di attualità. Parleremo fondamentalmente di un organismo piccolino che vive nelle profondità del mare, che però respira qualcosa che non è l'ossigeno. E di questo ne parleremo col professor Roberto Danovaro, professore di biologia marina presso l'Università delle Marche del Dipartimento di Scienze del Mare. Buongiorno professor Danovaro. Buongiorno a voi. Professor Danovaro, all'inizio abbiamo 100 parole per introdurre la trasmissione e quindi effettivamente se riuscisse in 100 parole a descrivere più o meno che cos'è stata questa ricerca, questa scoperta che è stata pubblicata qualche giorno fa su BMC Biology, come la descriverebbe? Ma direi che si tratta intanto di una grossa sorpresa per la scienza, ma soprattutto per la biologia. Sino a pochi giorni fa, insomma, si pensava che gli unici organismi che potessero vivere permanentemente senza ossigeno fossero microorganismi, ovvero batteri, archea o alcuni protozoi. Questa scoperta invece dice che anche degli animali superiori, degli animali complessi, hanno la possibilità di adattarsi a una vita che viene condotta permanentemente, che è importante dire, non è solo trattenere il fiato per qualche minuto, qualche ora, insomma, ma vivere tutto il loro ciclo vitale in assenza di ossigeno. Perfetto professor Danovaro, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Quando torneremo in studio, nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire come è stata svolta questa ricerca e nella seconda parte della trasmissione, quindi nella parte finale della trasmissione, cercheremo di capire il contenuto di questa ricerca e soprattutto che cosa c'è scritto sul paper pubblicato qualche giorno fa. Nothing. candle in to set your sail. Light a candle in, set your sail. The ocean, the ocean. The bees, they are swarming away from the hive. The spider is waiting to eat you alive in the dust. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata in cui stiamo provando a parlare di forme di vita nuove trovate nel fondo del Mar Mediterraneo, e ne stiamo parlando col professor Roberto Donovaro, professore di biologia marina presso il Dipartimento di Scienze del Mare dell'Università Politecnica delle Marche. Stiamo parlando in questa puntata di una forma di vita di un organismo multicellulare chiamato appunto l'oricifera. All'inizio però, all'inizio della trasmissione, cominciamo con un pezzo di Monty Python. La metà del film. Salve e benvenuti alla metà del film. È il momento in cui facciamo una pausa e invitiamo voi spettatori ad unirvi a noi autori del film in Trovate il pesce. Vi mostreremo una scena di un altro film e vi chiederemo di indovinare dov'è finito il pesce. Ma se pensate di saperlo, non tenetevelo per voi, strillatelo così che tutto il cinema vi senta. Quindi eccoci qua con Trovate il pesce. Professor Donovaro, ovviamente l'organismo che è stato trovato nelle profondità del mare non è un pesce. Esattamente che cos'è quello che avete trovato? Sì, non è un pesce, non è un vertebrato, appartiene a un filum completamente diverso. Che cos'è un filum? È, diciamo, il raggruppamento tassonomico più alto, no? Dopo il regno degli animali, cioè si divide in diversi fila. Questo è il filum degli oriciferi, ovvero fa parte di invertebrati di piccole dimensioni. Sostanzialmente, se volessimo raccontare agli ascoltatori come può sembrare, è una sorta di piccolo, può somigliare a un piccolo anemone con dei tentacoli sulla testa avvolto da una lorica, una specie di guscio di protezione, oppure, se vogliamo, a un fiore con un calice importante. Si tratta di organismi piccolissimi, comunque, teniamo conto che alcuni di quelli che abbiamo trovato hanno una dimensione massima di 100 micron, ovvero un decimo di millimetro. Siamo ai limiti del potere di risoluzione della vista, cioè appena appena riusciamo a scorgerlo, una punta di uno spillo. Io ho visto la foto che è stata pubblicata su BMC Biology, e questa foto mi dava molto l'idea di una medusina molto piccola. Sì, perché no, anche quella, diciamo, rovesciata, dove i tentacoli, che di solito sono usati appunto per diciamo catturare le meduse, in questo caso possono essere però retrattili, e in quella fotografia si vede come quando tutti questi, diciamo, questa parte della testa è tutta estratta all'esterno, poi quando invece si ritrae rimane solo, come dire, il guscio, come quando abbiamo, lo sai, a presente i pomodori di mare, no? Quando si toccano i tentacoli che si ritraggono e rimangono così, ecco, forse tipo un piccolo pomodorino di mare, però più rigido nella sua parte, diciamo, del corpo esteriore. Professor Donovaro, qui sotto i miei occhi ho il paper che avete appena pubblicato, e nelle prime pagine risulta chiaro che questa non è stata una ricerca che ha coinvolto solamente poche persone, soprattutto una ricerca che è stata fatta in pochi mesi, ma è una ricerca che è durata anni e anni. Ci vuole spiegare più o meno quali sono stati gli step di questa ricerca e quali sono stati i risultati che sono balzati all'occhio nella prima fase e nella seconda fase? Sì, allora, intanto questa attività di ricerca è iniziata nel 1998, e quindi è importante capire da questo che se per fare una ricerca così servono 10 anni, forse anche il modo con cui pensiamo alla ricerca deve essere un attimino compreso meglio anche da chi ci ascolta. Si tratta di una ricerca quasi casuale, nel senso che noi sapevamo da tempo, dagli anni 70 si sa dell'esistenza sul fondo del Mediterraneo, a 3,5 km di profondità, di queste pozze salate che sono rimaste lì da quando si era seccato quasi completamente il Mediterraneo, oltre 5,5 milioni di anni fa, quando si era chiusa Gibilterra. Il Mediterraneo, forse non tutti sanno che è un bacino quasi completamente chiuso in cui c'è molta evaporazione, c'è più evaporazione dell'acqua che viene dai fiumi. Il risultato è che se noi chiudessimo gli apporti di acqua dall'Atlantico, gradualmente si asciugherebbe. Ecco, si sono formate oltre 5 milioni di anni fa proprio come posto dove si è formato proprio un condensato di sali, che quando poi il Mediterraneo si è riaperto e sono rientrate le acque dall'Atlantico non sono stati completamente sciolti, proprio perché era una sorta di imbuto sul fondo del mare. Ecco che noi conoscevamo l'esistenza di questi bacini stranissimi, senza ossigeno, con acido solfidrico, un pH quindi molto basso, pressione di 350 atmosfere, diciamo che l'uomo già a 20 atmosfere è in pode oggi di lì, e quindi abbiamo 350 atmosfere, forse tra le condizioni più estreme che si possano immaginare, e lì siamo andati per fare cosa? Per cercare quello che si pensava fossero le uniche forme di vita che potevano resistere, dei piccoli batteri o dei virus, cosa che abbiamo pubblicato alcuni anni or sono. La sorpresa è stata però di trovare non solo quelli, grazie anche a degli studenti e dei collaboratori che sono anche qua con me, Cristina Gambi, che è una anche degli autori del lavoro, che lavorano con me da tanti anni, e guardando granello per granello di sabbia quello che c'era, hanno scoperto dei piccoli animaletti. E questa cosa ci ha incuriosito, perché non pensavamo di trovarli e soprattutto non sembravano essere dei cadaveri, non erano dei composti, erano belli, diciamo, integri e tra l'altro, come si vede dalla fotografia, belli colorati, che vuol dire che anche le parti interne erano sane. E da lì abbiamo cominciato, a fare tutti quegli studi che dal 1998 ad oggi ci hanno permesso di capire anche altre cose. Professore, nelle seconde spedizioni, poi per analizzare il fondo marino, quindi per vedere se c'erano questi organismi, avete utilizzato delle tecniche particolari, quindi avete utilizzato la tecnica dei raggi X, la spettroscopia infrarossa, la microscopia elettronica. Che informazioni maggiori danno queste tecniche rispetto allo sguardo classico che può avere un biologo marino quando osserva il fondale del mare, quindi magari degli organismi che vivono lì? Questa è una domanda infatti molto interessante a chi ci ascolta, di capire un po' meglio in cosa consiste la ricerca, perché uno pensa che l'attività di un biologo marino sia appunto alla Hemingway, no? Sul ponte di una barca, fumando la pipa. Invece c'è molta attività di campo, perché intanto bisogna raccogliere questi campioni. Già di per sé è difficilissimo prendere dei campioni dagli abissi, è stato comparato da alcuni autori alla difficoltà di prendere dei reperti dalla Luna, insomma, perché dobbiamo avere tanto delle navi d'appoggio molto sofisticate, con delle strumentazioni che possano essere che possano mirare in modo specifico a 4 km di distanza per prendere un punto esatto del fondale, entrare con dei sensori che resistano all'acido, a concentrazioni di sale 10 volte superiori a quelle del mare, prendere questi campioni e mantenerli in condizioni completamente inalterate, senza ossigeno, e portarli a bordo. E quando arrivano a bordo, la vita del biologo marino vuol dire cominciare un'attività di laboratorio di mesi e di anni, dove il primo passo ce lo insegna dai tempi di Golgi, è il microscopio, che è lo strumento ovviamente principe della ricerca biologica. Però che microscopio? Non un microscopio normale. Intanto abbiamo usato prima di tutto dei microscopi luce con ingrandimenti per mille. Dopo siamo andati anche oltre, utilizzando dei microscopi elettronici a scansione per capire un po' meglio tutta la struttura dell'animale dall'esterno. Poi pensate che un organismo grosso, un decimo di millimetro, è stato preso, inglobato in delle resine, tagliato a fettine di un micron, cioè di un milionesimo di metro, per l'osservazione al microscopio elettronico a trasmissione, per vedere le strutture cellulari e intracellulari. E come se non bastasse, anche un microscopio laser a scansione, che ci ha permesso anche di, utilizzando dei reagenti particolari, di vedere le terme del corpo scansionandolo con un sistema che si chiama anche a epifluorescenza, cioè che con delle lunghezze d'onda particolari, scansionare il corpo per vedere dove, c'era la parte pulsante, viva dell'animale, che è quella più interna, centrale del corpo di questi organismi. Questo solo per parlare degli aspetti di microscopia, e poi ci sono tutti gli altri. Professor Danovaro, nel momento in cui parlava del taglio di questo microrganismo a fettine, mi veniva in mente una specie di salamino tagliato con un cutter. Ci vuole spiegare, o almeno vuole spiegare ai nostri radioascoltatori, come viene fatta questa ricerca, questa analisi di questo organismo? Perché magari è curioso da capire per chi sta ascoltando la trasmissione. Certo, con piacere. Intanto l'abbiamo fatta in collaborazione con esperti di microscopia. Io ho ringraziato anche il professor Cinti dell'Università Politecnica delle Marche, che è un esperto mondiale del trattamento, diciamo, di questi materiali. Si tratta di intanto includere il corpo in una struttura tipo la paraffina che permetta di non distruggerlo quando passa la lama. E poi si chiamano microtomi, e come diceva lei, delle specie di cutter microscopici che sono in grado di, in condizioni particolari anche a basse temperature per preservare l'animale, di tagliare a fettine dello spessore voluto, e quindi tutta una cosa fatta, diciamo, con dei macchinari sofisticati, con un certo amaro, questo è sicuro. Senta, le faccio l'ultima domanda, che poi fa un po' da divisore fra la prima parte della trasmissione e la seconda parte della trasmissione. A che profondità sono stati trovati questi organismi? Sono stati trovati, diciamo, questi bacini anossici iniziano a una profondità di 3500 metri. Qui troviamo il tappo di una specie di salamoia, perché sono delle brine di sale. Si scende ancora in profondità per qualche decina di metri, in alcuni punti centinaia di metri. Si arriva sul fondo tra 3600 e 3700 metri, a seconda dei bacini. E questi organismi sono sul sedimento o anche alcuni centimetri al di sotto della superficie del sedimento, a circa 4 km di profondità. Benissimo, professor Danovaro, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio parleremo nel dettaglio di questa ricerca. Bene. To you again, I Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siamo sempre in collegamento col professor Donovaro e stiamo cercando di parlare di forme di vita nuove. Abbiamo parlato nella prima fase della trasmissione di come è stata realizzata questa scoperta, una ricerca che è stata pubblicata pochi giorni fa su BMC Biology, e invece in questa seconda parte cercheremo di capire un pochino il contenuto. L'abbiamo un po' accennato nella prima parte, ma adesso andremo più nel dettaglio. Professor Donovaro, normalmente in natura gli esseri viventi che respirano ossigeno hanno al loro interno delle piccole strutture che si chiamano appunto mitocondri, ma negli esseri viventi che invece l'ossigeno non lo respirano e quindi in particolare all'interno di questi lo ricifera, che tipi di strutture andiamo a trovare e quindi che tipi di strutture sono state trovate al loro interno? Questo è stato uno degli elementi che abbiamo trovato essere più sorprendenti, più intriganti. Quando abbiamo tagliato gli animaletti, come abbiamo raccontato, e li abbiamo osservati al microscopio elettronico a trasmissione, abbiamo osservato che più che esserci, più che una presenza, una mancanza. Abbiamo visto che non riuscivamo a trovare i mitocondri. E questi piccoli organelli che, come diceva lei, servono alla respirazione cellulare e soprattutto alla produzione di energia, il famoso ATP, l'adenosin trifosfato, la produzione di energia che serve per i movimenti, le attività cellulari, erano sostituiti da strutture che, quando le abbiamo confrontate con i dati presenti in letteratura, assomigliavano molto a degli idrogenosomi. Che cosa sono? Sostanzialmente dei mitocondri modificati che nell'evoluzione di alcuni organismi, in particolare sono stati trovati in alcuni protozoi, anche parassiti come il Trichomonas eccetera, si sono trasformati per funzionare senza ossigeno. Fanno la stessa funzione dei mitocondri, producono energia ma non usano ossigeno, per cui il loro prodotto finale, oltre all'ATP, invece di essere acqua ossigenata per ossido di idrogeno, come avviene nella cellula umana, è semplicemente idrogeno. Senta, ce lo siamo detti un po' nel fuori onda prima dell'intervista, ma se non respirano ossigeno, quindi se non sintetizzano ossigeno, che tipo di molecola sintetizzano, si è capito? No, ancora no, ci sono ancora troppe cose che dobbiamo capire. La cosa che però possiamo ipotizzare è che la capacità di adattarsi a queste condizioni estreme è probabilmente data dalla presenza di una simbiosi. Una simbiosi che in questo caso non è tipo quella classica in biologia marina, no? Il paguro, l'attinia, due organismi che si danno una mano, uno protegge l'altro dal cibo, ma in questo caso è una simbiosi tra l'animale, il lorifero, e probabilmente degli archea, dei procarioti, che sono, diciamo, la maggior parte delle persone conoscono i batteri, ecco. Gli archea sono, diciamo, analoghi, perché sono anche essi dei procarioti, ma sono un pochettino diversi dai batteri, comunque probabilmente hanno uno scambio, utilizzano probabilmente l'idrogeno che viene rilasciato dagli idrogenosomi e in cambio danno qualche molecola che è utile al metabolismo dell'animale. Adesso, professore, le voglio fare una domanda che è a metà fra il filosofico e lo scientifico. Adesso vediamo se è una domanda da caccia a fotone, però gliela voglio fare lo stesso. Questi organismi, questi lorifera, sono organismi che si sono adattati all'ambiente o sono organismi che sono già nati anaerobi, quindi con le strutture di cui abbiamo parlato, e poi si sono trovati nell'humus adatto per potersi moltiplicare e crescere? In una parola, ci sono o ci sono diventati? Questa è una domanda che va appunto tra la filosofia e l'evoluzionismo. È una bella domanda. Io direi che ancora le risposte non sono certe, ma se dovessi, come dire, scommettere 50 centesimi, penso che questi organismi si siano adattati alle condizioni anossiche, si siano evoluti come la maggior parte delle forme di vita superiori in condizioni di presenza di ossigeno, e poi abbiano per qualche ragione preferito un ambiente un po' più scomodo, un po' più difficile, adattandosi progressivamente alla mancanza di ossigeno. E questa è la mia ipotesi. Senta, le faccio l'ultima domanda prima di salutare i nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza di starci ad ascoltare per una mezz'ora a parlare di questi lorifera. Glielo dicevo durante il nostro scambio di mail che è avvenuto durante i giorni precedenti a questa intervista. Un astrobiologo per questa scoperta, per questa ricerca, potrebbe letteralmente ammazzare, perché in realtà quando si va a studiare la vita sugli altri pianeti si va sempre a riferirsi a un modello stabilito, che è il modello che c'è sul pianeta Terra. Ora che il modello sul pianeta Terra in qualche modo varia, quindi abbiamo trovato degli organismi non mono o pluricellulari ma multicellulari che non respirano ossigeno, quindi degli organismi strutturati che non respirano ossigeno, in quale modo può cambiare la nostra visione della vita non solo sulla Terra ma anche nel cosmo, considerando il fatto che qualche tempo fa sono stati scoperti dei batteri che non respirano ossigeno ma respirano direttamente del metano, quindi la vita è molto più complessa di quello che pensavamo. Beh, anche qui è una domanda veramente importante. Intanto volevo sottolineare che quei procarioti, quegli archea, che tipo batteri che abbiamo trovato dentro le cellule, sono dei metanogeni, no? Come faceva lei, c'era anche la possibilità, sono alcuni organismi che si cibano di metano, altri che lo producono. Questi lo potrebbero produrre e addirittura potrebbe cibarsene direttamente anche l'oricifero. Allora, io mi piacerebbe dire: cambierà completamente la nostra visione dell'astrobiologia, adesso possiamo inseminare l'universo di forme di vita superiore. In realtà non è così. Nel senso che quello che dovremmo capire meglio è la possibilità di sviluppo di interi ecosistemi che vivono, come diceva lei, aerobiosi, cioè in mancanza di ossigeno, e non solo singoli organismi. Non esiste un organismo che, svincolato da tutto il suo ambiente, possa sopravvivere. Però certamente rompono, come dire, un tabù, è quello che l'universo eventualmente potrebbe essere da parte dell'uomo, diciamo, noi potremmo esportare, potremmo colonizzare porzioni dell'universo solo con forme di vita, chiamiamole inferiori, cioè di procarioti, di batterie, di archea. È possibile fare forse qualcosa di più, ma una cosa rimane sempre indispensabile a mio avviso, ed è l'acqua, quindi anche questo è un altro elemento da tenere in considerazione. Professor Danovaro, la ringrazio per la pazienza che ha avuto per rispondere alle nostre domande. Saluto i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professore. Grazie.